We'll be right back. Prova, carissimi amici di Spreaker, che non ci aspetterete mai, siamo già online, ma la cosa più bella è che lo stesso programma è online sul sito Runtime Radio presenta E dopo questo movimento intestinale, che è il colpo di coda che Gualdi inconsapevolmente ci regala tutti i lunedì sera, in questo caso di martedì, amici di Runtime, amici di OGM, ben trovati ad una nuova puntata di Oltranzisti giuridicamente male informati. Sono anche ricordato, peccato che questa sono stasera con me, non vedo l'ora di annunciarli, mi sto tra l'altro coordinando con la regia, poi vi spiego bene perché. I sodali di tante avventure, voglio cominciare dal nostro master in regia Simone Pizzi. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova serata della sagra della sarcicia. Ma dammo la porchetta qualche volta, va bene. E poi ancora con me il sodale della prima ora, e oggi ci siamo per la prima volta dopo dal Covid riuniti tutti nello stesso studio, Marco il distruggitore Gualdi. Con la Covid. Andiamo via, Covid. Non c'è mai stato il Covid. Poi non ce l'hai più. Che stiamo a fare qui? Pure martedì, che palle, via, via, fuori tutti, via, via nella trasmissione, adesso, via, via. E collegati dai nostri studi remoti non posso far altro che salutare i compagni di tante avventure, il nostro ormai sdoganatissimo per nome e per cognome Francesco Di Muro. Vabbè, lobby frontali, va bene? Hai ragione, ho dimenticato io di attivare il canale. Allora, dicevamo, dagli studi della rigogliosa regione dell'Emilia, il nostro Francesco Di Muro. Niente, Paganini non ripete. C'hai anche ragione. E non ridagli al disco. La più bella battuta dell'anno. Io guarda, penso che sia una delle migliori introduzioni della storia della radio. Soprattutto la battuta che ha fatto Francesco, irripetibile, bellissima. Bellissima, assolutamente. Tempi comici fantastici. E sempre per tempi comici fantastici, fatemi introdurre l'ultimo, ma non ultimo, dalla calorosa come un termometro Puglia, il nostro Puccio Console. 37 gradi il 22 di giugno, ragazzi. Io vorrei sapere se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che ha chiesto la cittadinanza in Svezia, mi chiami e mi dia informazioni. Puccio, fino a 37 e mezzo puoi uscire, lo dice il decreto. A 37 sì, e mezzo interno, ti devi isolare. Esterno è il problema. Beh, in realtà c'è un articolo sul Sole 24 Ore che si domanda: la Groenlandia sta collassando? Beh, bene non sta. La vedo molto bianca. Un po' un po' pallida. Si sta sciogliendo. Groenlandia, che bella parola, Groenlandia. Si ti riempie la bocca, Groenlandia. Che poi voleva dire tipo terra tra Greenland, che no, no, terra verde. Per mettergliela al culo a chi voleva conquistare, perché Iceland, Islanda, in realtà dice terra degli acci e chi se ne volte, in realtà era verdi, è verdissima. Eh sì. L'Islanda invece, Groenlandia, andiamo là che è tutto verde, e invece no, neve, nevischi, è un cazzo di niente. Della follia. Ragazzi, allora intanto buonasera a tutti, bentrovati. Siamo di martedì, ve ne sarete accorti. Insomma, nessuno ieri che ci ha scritto preoccupato per dire: oh, ragazzi, ma OGM che fine ha fatto? Niente, neanche un gesto proprio di circostanza. Proprio non se ne è fregato nessuno. Però ieri, anche noi ce ne siamo fregati. Ma del resto anche noi, non a caso, eravamo a cena fuori. Del resto ogni tanto ci sono degli impegni istituzionali da rispettare. Beh, e noi istituzionalizziamo. Mini runtime meeting, mini raduno, salutiamo chi era con noi. C'era tutta la famiglia da Nightmare ieri sera, ma anche l'erede, quindi proprio al completissimo. C'era Girasole con noi, salutiamo Girasole anche se non se lo merita perché non ci sta ascoltando in chat. Tra l'altro penso non ci sta ascoltando un beneamato nessuno, questa sera batteremo il record negativo. Però la cosa bella è che siamo tornati a fare OGM un po' come lo facevamo prima del lockdown, con Marco che si fa i cazzi suoi al telefono, con esatto. Simone Pizzi alla regia e col sottoscritto, tutti dallo studio di Monterotondo. Non succedeva veramente. Però da tenendo le distanze di sicurezza e le mascherine in faccia, tutte con le maschere in faccia. Assolutamente, come fosse carnevale. Ma infatti non riconosco nessuno qui dentro. Una curiosità, com'è la logistica? Allora, mi immagino Simone nella postazione di regia vicino alla finestra. Ok, esatto. Tu Marco alla destra di Simone, tu invece Walter dall'altra parte, quindi non te caga nessuno, cioè che puoi fare, esatto, davvero bravo, bravo, bravo. Io sto in front of Simone, separato da questo schermo 27 pollici, quindi lui non vede me, io non vedo lui, ognuno si può fare i ricchi cazzi suoi, però tendenzialmente in particolare Pizzi che dovrebbe giocare a Candy Crush tra un po', se non... Comunque ti confermo zero ascoltatori, eh. Zero ascoltatori. Però noi stiamo ascoltando, quindi con un colpo di genio ne potremmo, siamo tre, noi già 4 o 5 5 quindi, persone ci ascoltano. Quindi noi potremmo andarcene in questo momento e diventerebbe negativo, secondo me. Quindi abbiamo meno 3 ascoltatori. Se noi contiamo siamo con, a 0. Esatto, se con 5 ascoltatori siamo a 0, giusto, se ne andiamo diventa meno 5. Niente, esatto. Ho noi, deciso di falsare le statistiche, ho appena mandato in play il mio cellulare. Perché noi abbiamo capito che siamo la tara di questo programma. Cioè anche noi se scrive ancora survival hacking il... Ecco, c'è un piccolo demonio. Questo era un altro ascoltatore. È andato via, ragazzi. Vabbè, è stato comunque un fuoco di paglia. Ruotando la testa di 360 gradi. Pizzi, io ti faccio una domanda giusto per scrupolo. Sì, stiamo andando live? Perché malgrado 3-4 refresh, io leggo ancora Survival Hacking con Davide Gatti. Ho come l'impressione che stiamo andando live. Ce la stiamo facendo per i cazzi. Sì, siamo live. No, però mi sono ascoltato. Sento la mia voce. Siamo live da ben 6 minuti e 32 secondi. Siamo all live alla Scolane. E se avete problemi, c'è anche su Spreaker. Siamo così. Questo esperimento strano questa sera. Di questa doppia trasmissione. Anche l'altra sera, se non sbaglio, stessa soluzione. Non mi ricordo se era runtime mondiale europeo di notte. Però ti aggiorno che adesso c'è un ascoltatore che dovresti essere tu. Ho spento, però sì, ero io. Ah, eri tu? Allora sì. No, è un ascoltatore perché dalla Lombardia, dice. Ah, no, non credo. Io. Sono connesso dalla rete di casa tua, quindi suppongo di no. Va bene, un lombardo chi potrebbe essere? Chi potrebbe essere? Si accettano scommesse. Mobile Safari, quindi è un un appoliano. Ha smesso di seguirci. Beh, posto. È uno che sperava di sentire Davide Gatti, ha capito che non era Davide Gatti, minacciato. Sì, ma anche giusto, anche giusto. Vabbè, ragazzi, comunque ora potremmo passare tutta la serata a parlare di quello che abbiamo mangiato ieri, per esempio, però mamma mia, non lo faremo, anche se abbiamo mangiato tanto e bene, tutto sommato, no? Bene, sì, bene. Diciamo, siamo stati, però no, scusa, permettimi allora di fare una recensione alla Gordon Bleff. Tanto sento cose di vetro che si rompono, vabbè. E, praticamente siamo stati in questo locale che si chiamava Pizzi Rimpizzamo, esatto, diciamo, che però diciamo c'aveva un problema tecnico. Che la roba era tendenzialmente buona, però è uno di quei posti dove era io scarsa. Io non consiglierei, perché tu gli chiedevi le cose e non c'erano. No, ma in realtà c'era il problema che c'era la cameriera che ci ha servito, tanto caruccetta, ma non è che se faceva capire proprio bene. A un certo punto mi ha intrippato il cervello. Sì, a un certo punto ha fatto tutta una meccanica. Un iperbole. Allora, se voi avete le ordinazioni della cucina e del forno, visto che non posso mandare 8 comande, mi dite che fate? Io non l'avevo capito, infatti, quello che cazzo, cioè, lo sai che cosa avevo capito io? Io avevo capito che se ci dovevamo mettere tutti d'accordo perché ordinavamo solo pizza o ordinavamo solo cucina. Addirittura ho capito che dovevamo mettersi d'accordo e dire tutti una stessa cosa. Io, cioè, allora, a prescindere, io quello l'avevo già una cosa sola, esatto, può essere pure. La tesi di Pizzio l'avevo esclusa perché insomma immaginavo non fosse così, però non capivo invece il concetto de... aspetta, ma poi io ho pensato come bollitori al ristorante, che non ti posso fare otto piatti di pasta diversi, sì, dovete ordinare tutti la stessa. E quello anche poteva essere, sì. Però l'ha messa, l'ha incartata in un modo che... onestamente non si è capito, perché quando poi noi abbiamo fatto presente i nostri dubbi, lei ha detto, cioè alla fine la sostanza è che ognuno poteva ordinare quello che cazzo gli pareva. Da stronzi. Sì, l'ha buttata in parole. Quindi ci ha dato un'informazione inutile, no? Su una sbagliata. Forse sbagliata. Ho capito io qual è il problema. Cioè, che mentre lei parlava e perdeva tempo, c'era il cameriere che andava a fare la spesa là vicino dal bagno a comprare gli ingredienti. Però non ha comprato, però non ha comprato tutto. Non ha comprato l'icnusa, che altro non ha... Cioè, non c'era niente. Allora, l'icnusa era finita. La cicoria è finita mentre la usavamo. La cicoria è finita giusto un tempo per fare la pizza a girasole. Se no mangiava soltanto la focaccia bianca. Esatto. Sì. Le patate dolci erano finite. La patata al cartoccio era finita. E c'erano altre cose che erano finite. La birra era finita. Beh, l'ho detto. Nusa, sì, anche Ravanelli. Mettiamo che pure Ravanelli. I Ravanelli, sì. Anche, aspetta, pure Dino Baggio. Anche. Non ricordo anche cosa aveva ordinato Michela prima di poi ordinare dei tonnarelli cacio e pepe. Che non c'era manco quello. Non me lo ricordo. Però insomma, però vabbè, dai. D'altronde vi siete mangiati? Non no, tu tra pizza e panini devo dire che era tutto abbastanza buono. Allora, io la pizza con alici, fiori di zucca e mozzarella, un po', ma sì. Ah, quella che ho preso io era veramente abbondantissima, perché era il cavallo di battaglia del locale. Infatti si chiamava pizza rimpizzamose, che praticamente era un ripieno. Dentro c'era il prosciutto cotto con la mozzarella, fuori era tutto spalmato, tutto tempestato di rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano. Solo che era un chilo e due di pizza. Era fatta per essere mangiata da soli. Io ne ho lasciata a metà. Io sono uno che quando si tratta di pizza non fa prigionieri di solito, però niente, i panini devo dire invece che ci hanno fatto. Detto che erano molto buoni, il pane fatto in casa, però il fritto non era abbondante, però non era neanche era qualcosa tipo, dava quasi il senso di riscaldato, cioè non fresco, non lo so, però non erano male, cioè devo dire. Comunque insomma, bella serata, siamo stati bene, poi appunto abbiamo avuto l'onore di avere come commensali tutta la famiglia Data Nightmare, quindi insomma quelle occasioni che erano un po' le prove generali di quello che succederà a ottobre, magari, però non facciamo spoiler. Invece ragazzi, torniamo un po', come dire, alle faccende del nostro bel paese, cominciamo a parlare un po' di cronaca, perché li mortacci loro, non ci può essere una settimana che non ci fanno cristonare pizzi. Ti vedo molto attivo. Vai con la base. No, vai con la base. C'era la famosa base. Ripeti. Dicevo che... No, ho sentito. No, vabbè, era per rifare il... Okay, no. Mi dispiace. Lo zero comico, capito? Vabbè, stasera va così. Il cagnaccio ha vomitato, allora era un po' sopra pensiero. Vai. Dicevo, insomma, che non c'è una settimana che non c'è almeno una, due, tre, cinque notizie che ti fanno scristonare. A me? Niente. Ah! Ecco. E che cazzo, scusate, datemi cenno. Porco zio, porco zio, Dazio Pino, Dio mio. Ragazzi, chi se la sente di introdurre l'argomento? Che è successo di così scristante? Vai, Francesco, Francis. Vai, dici. Non so che sia, non sono. Niente, sembra che sto dalla zona non sa da fare in ogni maniera, cioè addirittura la chiesa, che ricordiamo a tutti, dalla Breccia di Portapiglia è gentilmente ospite del territorio italiano. Ospite non pagante, tra l'altro. Ospite non pagante. Tra l'altro, anche dai patti lateranensi e anche da sto concordato dell'84, per la prima volta nella storia proprio di quando esiste il Regno d'Italia, di quando esiste la Repubblica d'Italia, da quando esiste anche Gesù Cristo, ha provato a dire diciamo che questa legge viola il concordato abbiamo dato, quindi dobbiamo fare una commissione paritetica, perché c'è un'ingerenza stavolta piuttosto pesante, diciamo un tentativo di ingerenza piuttosto pesante per quanto riguarda la legiferazione italiana. In particolare non mi ricordo come si chiama, cardinale Marcinkus, no, chi l'è morto, Marcinkus, mortacci sua. schifosissimo. Mi sono dimenticato perché non c'ho la notizia in mano, vado piuttosto a braccio. Comunque il corrispondente del ministro del, degli esteri del, che poi è ridicolo, il ministro Gallagher del Vaticano, Noel Gallagher, è andato proprio alla Farnesina a Roma, consegnato questo documento a, al ministro, al ministro per il, Mario, il primo ministro Silvio Orlando. Sì, magari. Voiello, il cardinale Voiello. No, quello nel... No, è il cardinale Gallagher. E dire che non sa da fare sta legge, perché violerebbe, diciamo, la libertà di un altro ministro dire. Avrebbe detto, quindi rivediamo il concordato e poi se ne parla. Allora, quant'è che ci dovete di IMU degli ultimi 60 anni? Nessuno ci avrà le palle a fare le cose, mai, sì, nessuno. Ma voglio dire... Figurati poi questo governo leggerissimamente sbilanciato. Però no, il cardinale Gallagher si è giustificato, così me l'ha raccontata Salvini. Quindi io ho sentito che mi ha raccontato così, c'era qualcosa che non mi andava e ho fatto questa poi posso dichiarazione, dire una cosa, questo comunicato. Finale ma iniziale. Il DDL Zan, carissima gente, pure l'altra volta mi è arrivato pure, diciamo che io sono in contatto con gente. Ma la base la devo tenere tutta la puntata. Sì, per tutta quanta la cristonata. Okay. Diciamo che sono in contatto con gente che ha contatti con gente molto cattolica e quindi spesso e volentieri mi manda robe provenienti da gruppi di cui in qualche modo è infiltrato. E quindi di catene di Sant'Antonio che se ne sprecano su sta robaccia, su sto fatto che il DDL Zan imparerà i bambini a essere gay alla teoria gender, ci impedirà di manifestare un prete se non si disporrà, non sarà disposto a dare in matrimonio due persone omosessuali, potrà essere arrestato, queste cose qua. Il DDL, vabbè, Zan. Vediamo anche i lati negativi. Vabbè. Sì, sì, il DDL Zan sono tipo 8 pagine scarse di una colonna scritta con lettere molto distanti tra di loro, sia con righe che con lettere. Qualcosa che in 10 minuti si finisce subito e non è niente di legalese e non c'è un cacchio di stralcio che dice che la gente potremo impedire alla gente di dire le porcate che vogliono. L'unica cosa è se sta porcata che dice induce a una violenza, oggettivamente un qualcosa di violento nei confronti di persone che non sono solo omosessuali, cioè su tutto l'orientamento sessuale, anche paradossalmente qualcuno gli dice sti eterosessuali di merda devono bruciare tutti, anche ma questo, infatti sì, no, potrebbe anche anche per quanto riguarda i disabili e tutto, cioè non ci vuole niente a leggerla, porca puttana, leggetela, ma niente, no, è un wall of text, non riescono a leggere, vedono soltanto le prime tre righe. Ma ragazzi, ma è evidente che non gliene frega niente di leggere, è tutto pretestuoso, e tra l'altro serve anche a fare campagna elettorale, perché poi di fatto stanno sfruttando questo pretesto per fare campagna elettorale sovranista, secondo me. Poi figuriamoci, l'elettore legge ancora meno del politico, per cui proprio un invito a nozze, no? Però sempre rigorosamente etero. Noi stiamo parlando comunque di gente in cui il principale esponente politico dopo un anno e mezzo... Scusa, c'ho una dichiarazione, attenzione. Mi hanno battezzata, grazie. Vabbè, come al solito ho sbagliato, però va bene. C'è questa tizia, che non so chi cazzo sia... Che dice ringrazio i miei genitori che non mi hanno battezzata. Elodie, chi è Elodie? Elodie è una cantante. No, Elodie. Ringrazio i genitori che non mi hanno battezzato. Ma ti assicuro che carina, dai, tutto sommato. Ti assicuro che potessi, so che sia, è una cantante. La elodieresti. No, vabbè, una bella ragazzetta, anche brava. Anch'io mi piacerebbe poter dire la stessa frase, cioè mi sarebbe piaciuto poter dire i miei genitori mi hanno lasciato la possibilità di scegliere in età della ragione se battezzarmi o no. Questa cosa secondo me dovrebbe essere... Pensa che in realtà ci sarebbe qualcuno che avrebbe potuto anche dire avrei ringraziato i miei genitori se non mi avessero partorito, ad esempio. Beh, vabbè, ma per certi momenti sì. Ma no, noi vorremmo ringraziare, avremmo voluto ringraziare i genitori di alcuni esponenti politici se non li avessero partoriti, ma purtroppo appunto questo volevo dire. Comunque i miei figli potranno dire che non sono stati battezzati. Comunque Comunque, ragazzi, io voglio ricordarvi questa cosa, prima o poi la farò anch'io, che sul sito dell'UAR, quindi sostanzialmente l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, c'è il modulo che si chiama Sbattezzo. Ed è sostanzialmente basta mandare una raccomandata. Esatto, è qualcosa che prima o poi potremmo farlo. Farò. Perché tu vorrei... cominciano Ti vengono a casa, ti vengono a casa per convincerti, è vero. È come micitofoni. Ma è morto zio proprio sarcitofoni. Ma non hai capito però la conseguenza. Scusa, però se scusa Francesca, scusa un secondo. Tu quello ti citofona e tu invece di rispondere fai così. Capito? E quello si spaventa e se ne va. Scusa. Quello sente. Porco zio, e se ne va. Porco zio, me ne vado. Vai, Francesco. Mi ha fatto dimenticare. Vabbè. Parlavo di Sbattezzo. Esatto. Sì, cioè è solo una questione formale, una questione che dica, ah, ok, sono sbattezzato, ci sono delle conseguenze. No, ti risucchiano l'acqua che hai assorbito durante il battesimo. Che esatto, ancora gliela devi ridare, esatto, però va bene anche sotto forma di urine. Il discorso qual è? Che così tu non vieni più annoverato statisticamente per default nel 90% di cattolici di cui diciamo veniamo considerati di default. Esatto, no? Perché l'Italia è considerato un paese laico, ma comunque a prevalenza cattolica, perché fondamentalmente tutti vengono contati loro malgrado. Se tu mandi questo modulino e teoricamente non vieni più annoverato nella conta dei cattolici. Io sono contro, è meglio far credere alla chiesa di essere potente. Poi c'è il problema tecnico. E poi tecnico. Il giorno che batteranno cassa e non troveranno più nulla. Chiariamo, il problema tecnico può essere un domani decidi, ti innamori della persona che vuole convolare a nozze in chiesa e lì diventa un problema, perché poi hai lo stigma addosso. Perché dopo ti battezzano con lo sputo. Ma no, secondo me dopo ti battezzano a 90 gradi, no? Perché ti devi redimere come si deve. Ti mandano i frati sordi, ti mandano. Ma infatti sono contro il matrimonio anche per questo. Ma tra l'altro io volevo anche aggiungere che in Ungheria, che sapete insomma questo paese così aperto che ci ha regalato tante bellezze e democratico, giustamente esiste una legge che impedisce di parlare di omosessualità ai ragazzi fino ai 18 anni. Sì, è nuova di emendamento, l'hanno tirata fuori un paio di settimane fa. E quindi zio Donino bisogna salvare i bambini da Harry Potter. Hanno fatto una dichiarazione circa 12 paesi europei dicendo che siamo un po' preoccupati di questa cosa, e proprio qui nei minuti di recupero i paesi sono diventati 13. Indovinate qual è l'ultimo paese che si è aggiunto così proprio in corner? Italia. Siamo aggiunti noi all'ultimo minuto, sì. Strano perché siamo cazzo, ma noi è vero nelle prime versioni che gira del coso non c'è l'Italia, poi all'ultimo anche l'Italia praticamente hanno chiuso nello sgabuzzino Salvini perché si sono lamentati, ma voi non ci dite mai niente. Tra l'altro io mi ricollegherei anche al fatto che il sindaco di Amsterdam aveva chiesto di Amburgo? Non lo so. Vabbè, comunque. Okay. Ha chiesto praticamente durante l'ospitata di una delle partite, gli ottavi di finale di Euro 2020, in Olanda, di poter addobbare. Sì, in Olanda, allora ok. Austria, quindi. Giuseppe ha chiesto di addobbare lo stadio con i colori LGBTQ+RN. Ma in realtà l'hanno fatto, però. No. La UEFA ha detto che non si può fare perché le organizzazioni UEFA sono apolitiche e religiose. E anche sessuali. Comunque è Monaco, la città è Monaco. Monaco, vedi, la Germania, infatti mi ricordavo che... Ma scusa, cioè, vabbè, in realtà quindi se sei contro un pregiudizio lo stai negando. Infatti è una strozzata. Se dici, mi astengo. È una strozzata. Io infatti su questa cosa, bravo, mi vorrei soffermare per due ragioni. Uno... perché tu puoi dire che noi siamo un'organizzazione, anzi no, in realtà neutralmente, cioè che è neutrale dal punto di vista religioso e politico, quindi cioè nel senso noi siamo un'organizzazione sportiva, non esprimiamo nessun tipo di concetto, ok, però non puoi esprimere cioè neanche un dissenso verso un qualcosa di sbagliato, ad esempio, no? Cioè nel senso non lo puoi fare perché secondo loro non si può fare sta cosa. E devo dire che è un po'... insomma, diciamo un'ennesima occasione per la UEFA, insomma, di dimostrare di essere un'organizzazione del ventunesimo secolo, anzi, soprattutto. Vabbè, ma Simone, dopo quello che è successo con il discorso della Superlega, che spaccava il culo a tutti qua, questi, vabbè, tutto a posto, tutto non c'è niente. Comunque, vedere solo un tweet della UEFA del 2019 quando stavo organizzando l'Euro 2020. Ora ve lo passo, nel frattempo parlate, nel frattempo parliamo. Ma io volevo dire che non è solo la UEFA, nel senso che purtroppo nel mondo del calcio, a tutti gli ambiti, a tutti i livelli, il razzismo è radicato, e vale per la Lega di Serie A. Però diciamo, qual è l'unica nazione che ha detto brava UEFA, perché tutti gli altri più o meno... Hanno detto Ungheria, esatto. Vabbè, insomma, l'Ungheria è chiaro, no? Che insomma è uno stato sovranista. C'è un documento. Vediamo, Proud that Euro 2020 will be the tournament for everyone. Sì. Equal proprio. Game. Vabbè, ma ragazzi, anche la Juventus oggi ha fatto un tweet del genere. No, non solo la Juventus, sì, ha fatto il tweet con la J multicolore. Esatto, però senza contare che l'altro giorno, scusami, altre squadre europee hanno fatto. Sì, però Puccio, per dire che l'ha fatto la Juve, i cui giocatori, tra cui Chiellini e Chiesa, non si sono inginocchiati sabato. Prima della partita contro il Galles, quindi voglio dire, comunque, secondo me il simbolo della Juve ricordava più una citazione di Amica 500 che... Sì, è vero, sì, la V di... un po' comodo, esatto. Beh, in realtà, guarda, io posso dire una cosa su questa questione dell'inginocchiamento. Non l'ho seguita, però ci può anche stare che non si erano capiti, perché diciamo che secondo me più che un'abbondanza di razzisti c'è un'abbondanza di stupidi, cioè forse è un po' questo, no? Tipo, no, ma perché se dovevo ginocchiare? Secondo me non lo sapevano proprio, cioè nel senso... Non ce la faccio a giustificarli con questa sorta di ingenuità di fondo. Vabbè, ce la fai perché non lo vuoi fare, perché sennò, nel insomma, senso, no, ci può anche stare. No, Simone, intendo dire che sono sicuro che prima dell'inizio della partita ne hanno parlato. No, lo sappiamo. Hanno detto a te, hanno telefonato. Ma dai, su. Dai. Non lo sappiamo. Su. Vabbè. Oggettivamente. Vabbè. Cioè, io penso che non. Allora, a quel punto, voglio dire, non ti metti a fare una figura del genere a livello internazionale quando vedi che tutti l'hanno fatto, tu non lo fai per principio, perché vuoi. Diciamo che secondo me ci può anche. Secondo me non l'hanno fatto intenzionalmente. Partiamo da questo presupposto. Ma posso mettere in considerazione il fatto che secondo me non ci hanno capito un cazzo. Cioè non è così improbabile, insomma, diciamo, però poi anche sti cazzi, dai, tutto sommato. Ma sì, ma comunque tanto ormai quello... Ma posso mettere lo sfondo normale? Adesso sì, abbiamo finito di Cristo. Ok, no, perché veramente dopo un po'... Simone, ricordati di mandare questo audio alla Radio Nazionale Svizzera. C'è ancora quel problema di assenza, esatto, di sottofondo. Esatto. Pensa, ne abbiamo parlato proprio durante Italia-Svizzera. Sì, ho sentito. Ricordando anche il fatto che sì, la radio svizzera, ma in realtà pure la radio tedesca e pure la radio austriaca, ho scoperto. Ah, quindi la questione è proprio nordica. È una questione, sì, di teutonica. Prevalentemente le lingue teutoniche hanno una legge che gli impedisce di mettere i background musicali quando parlano gli speaker. Quindi è una cosa proprio che no, così neutrali che nemmeno il tappeto. Neanche quello, esatto. No, ma al di là di questo, io vorrei ricordare veramente programmi assolutamente all'avanguardia che abbiamo ascoltato. Mamma mia. Attraversando la Svizzera, tipo Il rumore misterioso. Sì, c'è un momento in cui guardavo Simone guidando con le allucinazioni. Che cos'è questo rumore? Guarda, una cosa peggio l'ho sentita a Tenerife. L'ho sentita a Tenerife, dove praticamente tu devi considerare che a Tenerife, pur quanto piccola, ci sono cinque emittenti. Esatto, bravo, ci sono cinque emittenti di cinque lingue diverse, cioè quella italiana, quella inglese, quella tedesca e ovviamente quella spagnola, che secondo me, ma questa è una mia illazione pura, stanno tutti quanti dentro la stessa stanza, condividono tutti lo stesso hard disk, perché le musiche sono sempre le stesse, condividono lo stesso hard disk praticamente dei brani musicali, solo che cambia solo i jingle che ne so in inglese o in francese o... Ah, ma forse è una radio multinazionale, cioè nel senso sono tante radio. Sì, vabbè, cioè la stessa radio con diversi, ma in realtà è la stessa radio. Esatto, sono cinque studi dove sono coordinatissimi, sì, e fanno parte della musica. E c'hanno un solo hard disk. Cioè, tu switchi, è come se switchassi la lingua. Cioè, come se cambiare lingua. Devi fare no, perché sono contemporanee. Vabbè, certo. Ma dicono le stesse cose in lingua diversa. Ah, può essere, sì. No, però c'era un bellissimo spot pubblicitario del Gino, il pizza. Gino the Pizza Maker, che era meraviglioso. The Pizza Maker. Tanto, sentiamo musiche che... No, perché volevo allietarvi con The Pizza Maker. Feliz Navidad. È tipo, sì. Tra l'altro, Navidad. Adattissima al clima. Eh sì, tutto. Hai ricordato il video dei The Jackal, quello del ma questa è la cosa. Ah, ma mi promettono la cosa. Era José Feliciano, ragazzi. È neorealismo quel video. Scusa, non posso lasciare il finestrino aperto, si perde lo spirito delle feste. Esatto. È stato il momento più Io ho il file di lei, non mi va in loop, cioè va in loop, però smette di fare qualcosa. Ragazzi, abbiamo la prima ascoltatrice in diretta, perlomeno la prima che ha la vergogna di palesarsi, cioè con noi Angela, quindi salutiamola. Buonasera. Ciao Angela, ciao. Allora, se non abbiamo spaventata fino a mo. Ciao Angela, Feliz Navidad, vedi che scappa. Mamma mia. Confermo che Angela ci sta ascoltando insieme ad altre due persone. Vedi che ci sono sempre quei vigliacchi che non si palesano. È vero, è vero. Ma è vergogna. Che ci guadagnate? Che ci guadagnate? Ecco, salutiamo Girasole. C'è anche Girasole. Ciao, buonasera, Girasole. Ah, vedi. In realtà ti avevamo già salutato, anche se non lo sai. O forse lo sai perché ci stavi ascoltando senza dire niente. Senza dire niente. Era una tara anche lei, quindi che faceva zero, ma non... No, poi in teoria mi risulta che ci sia anche Rizzard. Attenzione. Dicono, però, poi insomma, nel background degli ascoltatori. Esatto. Comunque ragazzi, visto, parliamo un attimo di argomenti un po' più faceti. Cioè, la Puglia ha vissuto un momento estremamente ilare in questi giorni, dimostrando che diciamo, la gilda dei ladri e degli spacciatori della provincia di Bari sta vivendo un periodo non proprio fortunatissimo per ma quelli di Bari Vecchia? No, questo è di vicino, dov'è che era? Di Modugno, mi pare. In pratica, un ragazzo con precedenti per spaccio sottoposto a arresti domiciliari è stato fatto oggetto della visita da parte di della polizia, che giustamente va a controlla che chi sta agli arresti domiciliari non se ne vada girando libero per il paese. Quando gli hanno detto sicuro che non c'è niente, questo gli ha risposto sì, tranquilli, mandate pure i cani antidroga, non ho nulla. Gli hanno mandato i cani antidroga veramente e gli hanno trovato 35 dosi di hashish nascoste in un manichino che usava per fare box. Vabbè. Ma perché lo stava frollando, capito? Come la carne con roghi, frollava l'hashish. Vabbè, perché è più buono dopo. Però scusa, a proposito di Puglia, che comunque... No, dico a proposito di Puglia, che ovviamente c'ha sempre la sua importanza, abbiamo un collegamento. Maestro, imparami il kung fu. Tu sei troppo cozzala per capire il kung fu. Guarda la legge prima. I cozzali non lo possono capire il kung fu. E tu pensi di essere meno caffone e cozzalo di me? Guagni, ma che ci tu pizza stai a parlare? Tu non mi pare proprio cinese. Mi sembri più un cozzalo di campagna. Oh, ma con chi pensi di stare a parlare? Con chi come a te? Allora io chiedo a Puccio, che cazzo vuol dire cozzalo? È l'equivalente locale di coatto. Sì. Ah, ok. C'è il famoso cozzalo nero. No? C'è questo bellissimo canale, YouTube. Scrivete nonno cozzalo Heidi. E praticamente c'è il nonno di Heidi che parla. Io vorrei sapere come l'hai trovato sto canale. Cioè, non lo so, me lo suggerì una volta YouTube e io da lì in poi tutti sei me li sono andato in a rota proprio. Sì, a rota proprio, me li sono visti tutti. Perché lui poi mena tutti, a Putin, a Cristiano Ronaldo, al Papa. Ah sì, poi sì, ha pure ammazzato le botte con Ciro. Insomma, beh, è figo. Ragazzi, intanto salutiamo anche special guest star, anche se non ci sta ascoltando, però ci legge nella chat della diretta, Arturino Mazzei. Grande Arturino, poi ci sentiamo sti giorni, ci dobbiamo organizzare perché mi hai messo in testa un'idea e la facciamo. Lui sa. Vabbè, ma non ci sta ascoltando. Quindi. Esatto. Stiamo parlando della famosa pornografia alla radio. No, quella la facemmo a suo tempo con... Ma quella, scusate, ci siamo già evoluti in racconta un meme che oltre la pornografia. Ma invece sto cercando un meme da raccontare. Tu cerca, ma invece quella notizia bellissima di quel viaggio nel tempo che ha fatto la Grecia ultimamente, che è tornata indietro tipo dei 100 anni. La Grecia, raccontaci. No, beh, il fatto delle ore lavorative che sono più flessibili adesso. Guarda, no, se fai così mi devi rimettere i cristonatori. Vabbè, allora vai così. Ragazzi, la faccio breve così, strappo come una ceretta all'inguine. Il Parlamento greco ha approvato una nuova legge, si torna a lavorare 10 ore al giorno. Fino a 10 ore al giorno. Ho capito, 10 ore al giorno. 10 ore al giorno. Però in compenso anche il diritto di sciopero sarà un po' rivisto. Pare che non si possa scioperare più, però vabbè, in determinate circostanze sono anche previste sanzioni per eventuali interruzioni della prestazione lavorativa a causa di sciopero. Quindi insomma, cioè che altro? Ma quindi Tsipras è sparito praticamente. Zizzichetto. Sì. Sono bevuto. Sì, ragazzi. Ah, sono proprio bevuto addirittura. Ah, no, secondo me sì, No, però. In realtà quello strano che c'aveva, che si portava dietro Tsipras, che era Varoufakis, quello che andava agli incontri in moto, eccetera, eccetera. Mo vi dico, non è proprio uno stabilissimo. Non avevo dubbi. Ma pure Tsipras non è che. Però insomma. Sì, no, ma no, Tsipras in realtà è uno che poi, quando ha capito che sostanzialmente stava andando a sbattere, un accordo l'ha cercato. Varoufakis era uno di quelli che diceva: no, non diamo una lira a nessuno, facciamo tutto internamente. Sì, sì. Con Tsipras che cercava di spiegargli: noi produciamo barche e yogurt e olive. Una di queste due non paga le tasse perché abbiamo una legge costituzionale che dice che gli armatori non pagano le tasse. Di che vuoi campate? Quindi insomma, è stato. Tanto, non so se sapete, forse Varoufakis è l'inventore delle microtransazioni su Steam. Perché ha lavorato per Steam. Infatti era famoso per quello. Varoufakis è proprio scomparso. Tipo, pare si sia rintanato a Malta e scrive su un blog. Quelle sono le ultime notizie che si hanno di lui. Ma comunque c'è un governo lievemente conservatore in Grecia. Vabbè, a parte il fatto, insomma, che per evitare il fallimento hanno firmato col sangue chissà che cosa in Grecia, insomma. No, quello sicuramente. Ma quindi a chi ha vinto? Alba Crescente, là, come si chiama? No, Piscia Dorata. Completamente smantellato. C'è il fondatore in galera. Alba Dorata è scomparsa. Quella cosa sarà solo risparmiata. Meno male. Però cioè io un po' la questione greca la conosco. Ma come sono sto olive, Puccio? Non lo so, io non le mangio. Sono greche. Porco due. Stavo dicendo, no, i greci base del mestiere, prima della botta si sono divertiti parecchio. Per dire, c'era questa fantastica storia delle zitelle di Stato. Cioè che se tu dipendente pubblico avevi una figlia non sposata, che poteva anche convivere col fidanzato o con un'altra donna che se ne frega, bastava che non fosse legalmente sposata, gli spettava un vitalizio. Perché figlia di un dipendente pubblico. Poi c'avevano un livello di evasione fiscale che era assolutamente fuori scala. Cioè a noi piace raccontare le barzellette sul fatto che se vai a Napoli, se vai in Calabria, non vedere uno scontrino, e non è vero. Vi posso assicurare che in Grecia ci potevi passare le settimane senza vederne uno, ed è obbligatorio come era obbligatorio da noi. Cioè, quindi la Grecia le ha combinate. Quando è arrivato il momento di pagare, vabbè, voi dice c'è sarà un motivo per cui era arrivata al sold out totale, che la Germania, per dargli una mano, gli si è comprata pure gli aeroporti praticamente. Non mi è sembrato un modo di dargli una mano, certo, è mi chiaro, è sembrato un leggero colonialismo, vabbè, certo, è chiaro, è ironico, però esattamente approfittato, però cioè, non è che stiamo a parlare di poveri innocenti che diciamo che sono stati coglioni due volte praticamente, insomma, perché poi diciamo cioè se lo dovevano aspettare che sarebbe arrivato. Perché poi dopo noi in Italia arricchito da questa cosa, sicuramente, e accannato al popolo, ma quello sicuramente, però noi in Italia abbiamo fatto tutta la morale, perché in fondo ricordiamoci che abbiamo un dovere di un come posso dire, un debito di civiltà con la Grecia, abbiamo un debito, punto. Un debito di origine, noi il debito c'ha pure, loro ce l'hanno, 2 milioni e 600 mila miliardi, quant'è? Non lo genere? So un fottigliardo e mezzo, milioni di miliardi, insomma, comunque vabbè. Bah, ragazzi, comunque. Tra l'altro, l'altra Europa di Tsipras, l'ultima attività è 4 anni fa. Vabbè. Quindi, ripeto. Sono rimasto indietro. Io ho votato Tsipras. Ma la Grecia dobbiamo aspettare le prossime elezioni per capire lo stato loro reale. E anche le prossime elezioni, perché insomma. Buon per loro se ne hanno ancora, insomma. Io levi quello che gli è rimasto. L'olive. Sai che i greci nei confronti dei quali abbiamo un debito di civiltà, quando loro erano una civiltà. Certo. Facevano prigionieri, uomini, donne, uomini. Beh, ragazzi. Non è che gli antichi romani fischiassero. Però l'hanno preso da loro, perché era una moda. L'hanno preso da loro, esatto. Gliel'hanno anche dato. Dato anche. Se lo sono dati a vicenda. Sì, diciamo che prima poi dopo gli hanno ribadito. Certo, perché abbondare, ripetita Juve. Esatto. Rigore per la Juve. Una volta, soprattutto a rantende notte, però sarà difficile, impossibile invitare... un mio amico che sta bene ma non sta bene, nel senso che mo sta scrivendo un libro per cercare di riabilitare gli dei greci, queste cose qua, perché dice che è un modello molto migliore rispetto al cattolicesimo, eccetera eccetera. Beh, non lo so. Cioè, finché non parla di sta cosa, parla una persona normale. Ma restiamo pagani fino in fondo, senza nessuna forma di. Non me la sento di dargli tolto. Cioè, tutto questo. Oh, nel frattempo, ragazzi, Carlo Sant'Agostino in chat ci mostra la screenshot. Non si è refresciato. Vabbè, fa niente. No, lo so io che non l'ho scritto. Siamo survival OGM. Va bene, non vi preoccupate, che ci stiamo. Vabbè. Quindi c'è gente che cerca Davide, ma non lo trovo. Ma trova Golia. Esatto. Ragazzi. Nel senso della caramella. La caramella, certo. Rigorosamente. Pizzi, è finita la base, te lo volevo dire, sì, così. Ma il problema è che non è finita, solo che non so perché questo file, infatti io lo cambio. E fanno un'altra, metti un'altra base. Cioè, non è che possiamo per forza vedere il piano del mezzo. Sto facendo un'altra cosa adesso. Sto giocando a Candy Crush, sto scrivendo che trasmissioni siamo, va bene, okay. Siamo quelli che siamo. Metti OGM, OGM live. Insomma, tra l'altro, ragazzi, capito? Io oggi avevo organizzato tutto un ospite al top, uno dei più grandi ospiti da quando esiste Runtime. Me ne ero acchittato l'intervista. No, morto. L'hanno arrestato. Yeah. Chi è? L'hanno arrestato perché la sentenza di condanna è definitiva, quindi lo hanno preso e lo hanno tradotto al carcere di Rieti. Parliamo del rompicoglioni di disturbatore TV per antonomasia Paolini. Ma quindi non parlava italiano? Come no? L'hanno tradotto. Esatto, hanno tradotto in rietino. Infatti, borgo. Entra in galera Sturdumello, gli hanno detto. E niente. E lui quello l'ha capito. Si dovrà fare 8 anni, ragazzi. E tra l'altro, per accuse non bellissime. Infatti, anche pochino, considerando, vabbè, persona e personaggio di indubbi disturbi mentali, io non so, avranno fatto delle perizie, ok, fatto sta che si dovrà fare 8 anni per un cumulo di pene. Mamma mia. No, ma è scritto, purtroppo è così. Tra le accuse per cui è stato condannato c'è anche la pedofilia, quindi ripeto, insomma, il personaggio va molto oltre il lato più noto di disturbatore di Paolo Fraiese, ecco. Ragazzi, io qua penso sta per decollare qualcosa, comunque. No, è il mio computer. Sì, infatti, ventole. Che... l'aria condizionata di qualcuno. No, è una computer, ventola. Il computer per la morte. Gli sto facendo fare troppe cose insieme. Sta giocando. Provato a pulirlo dagli ultimi 2 anni. No, da quando non c'è più Gusella. No, esatto, l'ultima volta che l'ha stato pulito è stato Gusella. Che è morto di enfisema a seguito della pulizia. Il Covid si è portato via il Covid. Che beceruna, ragazzi. Siamo quasi come i beceri, vero? Però più beceri ancora. Beceri videoludici. Salutiamo, esatto. Umberto e compagnia. Molto probabilmente sono in diretta in contemporanea con lui, come succede spesso. Come sempre. Vabbè, d'altronde. Ragazzi, d'altra parte l'etere è grande. Non insomma. Possiamo sentire tutto. Eravamo tutti una stessa rete, ma siamo delle. Ma loro dicono le stesse cose che dicevano noi, solo in un'altra lingua. Come no, come no, loro parlano di cose diverse in maniera anche più interessante. Esatto. Ecco, sfreggiamoci. Sfreggiamoci, sì, no. Noi, no, invece, ragazzi, purtroppo. Ormai le nostre trasmissioni videoludiche non hanno senso di esistere proprio. Ma perché il videogioco ormai è sopravvalutato? È morto. È come il calcio. Di esatto. No, volevo dire invece, ragazzi, una notizia brutta perché nella notte, nella zona di Palazzuolo sul Senio, che credo sia zona Mugello. È sparito dalla sua abitazione un bambino di 2 anni. Ah, così? Tant'è che ci sono centinaia di soccorritori nei boschi attorno all'abitazione e col calare della notte dovrebbe entrare in azione un elicottero con un termoscanner per cercare di capirci qualcosa. E la memoria va subito al caso di quel bambino che poi è stato purtroppo trovato morto e... qualche anno fa ormai, e che poi il padre morì successivamente. Come si chiamava il... Non ricordo. No, manco io, devo dire la verità. Vabbè. Troppo tempo. Vagamente, diciamo, qualcosa mi dice, però... O forse era un film. No, c'è da domandarsi come ragazzino di 2 anni sei uscito di casa, ma... Bah, è quello, il problema è se si sono boccati dentro, è ancora peggio. Il problema è quello, sì. Vabbè, comunque sicuramente lo ritroveranno fra 20 anni, che parleranno un'altra lingua in una trasmissione televisiva... Esatto. Tra l'altro la madre della scomparsa di Pipitone praticamente ha come si dice, a quando non mi vengono le parole, ha diffidato, quarto grado da parlare ancora della essere rotto al cazzo. Era pure ora, insomma. Diciamo che si è anche prestata, eh. Io capisco e lo capisco, non facciamo questioni, non si mettiamo a fare polemiche. Lo capisco, perché deve essere una cosa terrificante come esperienza, perde un figlio, non sapeva che fine ha fatto, dove è andato e via dicendo. E questo poi ti induce a fare anche un sacco di cazzate, poi alla fine, chiaramente, inevitabilmente. Quindi, cioè, non è una cosa contro di lei o contro di loro, è però il fatto poi di tutti quelli che girano intorno, ogni volta devono tirare fuori, l'hanno vista lì che stava a 3/4,10, sono dietro al semaforo a destra. Me lo sono ricordato adesso, dopo 20 anni, perché sai, mo ci stavo a pensare. Ma poi io, da quello che ho capito, c'era un personaggio italiano-svizzero che girava intorno a sta questione, che era tipo qualcuno che lavorava ai servizi segreti, che questo ogni tanto andava là e c'aveva queste informazioni. Quindi secondo me questo sapeva dove stava, però non lo poteva dire, oppure era un altro cialtrone, insomma, che io non riesco a capire la gente che s'accozza dietro a ste situazioni drammatiche. C'è un disagio lì, si dice che, nel senso che lo fanno perché hanno un problema, sì. C'è un disagio che cercano di compensare con il protagonismo. Disagio. Forse Francesco potrebbe darci. No, perché Francesco? Sai che gli dà fastidio? No, chiamate il dottor Campo. Sì, ma noi potrebbe. Se vuoi lo chiamo. No, starà lavorando. Ok, va bene. Ok, e niente, Sbano. Come smooth e come jazz questo sottofondo attuale. Hai visto? È sempre meglio di quello prima, insomma. Almeno cambiamo anche un po'. Ma sì, bisogna variare, anche perché insomma siamo entrati nella versione estiva di Runtime di OGM, che è uguale a quella invernale, ma col caldo, insomma, ecco. E che altro dire? Questa settimana, insomma, cosa è successo di bello? Vabbè, a parte che l'Italia ha vinto 3 partite su 3, si è qualificata a punteggio pieno nel girone degli europei, insomma, che mi sembra una cosa carina. Però potremmo, ragazzi, dire che un sito autorevole, cioè il meteo.it, è un sito autorevole. Quasi quanto Bio Blu, quasi. Quasi, però insomma manca un po' di referenzialità. Afferma che i Maya hanno fatto un grave errore nel predire la fine del mondo il 21 dicembre del 2012. Dice che è stato un errore di battitura. Esatto, hanno scritto può succedere, che invece di scrivere 2021 scrivi 2012. Succede sempre, quindi anche a me, abituato, quindi i Maya, quindi è quando Maya, è? Quindi, 2021. Il 21 giugno è praticamente tra il 21 giugno e il 31 dicembre di quest'anno. Speriamo bene, hanno presa larga, facciamo 6 mesi. Oh. Se entro quest'anno a me va bene qualunque data, pure alla mezzanotte del 31 a me va bene, basta che se togliamo sto scrupolo, basta, la famo finita. E tra l'altro abbiamo vissuto pure quest'altra grandissima commemorazione, avete visto? Poi non ho capito perché a Trastevere e non ad Ariccia, io questa cosa non l'ho capita, però è stato inaugurato proprio nel centro di Trastevere il monumento alla porchetta a Roma. Beh, che diciamo è una cosa abbastanza di pessimo gusto. Sì, a parte il fatto, insomma, anche a livello proprio artistico abbastanza opinabile. Molto vegan. Tant'è che gli animalisti si sono leggermente innervositi, dicendo questo monumento, questo deve essere rimosso. Eppure questo artista Amedeo Longo che ha realizzato quest'opera, che come mondo scrofano. Ha detto la porchetta, che è un alimento tipico laziale, ha voluto creare questo monumento un po' ironico, un po' così. Io non l'ho visto, vorrei vederlo. Adesso Marco, c'è presente la porchetta che c'ha Luigi il paninaro all'Arco di Sarra? Uguale però di marmo. Cioè, non c'era neanche molta fantasia nell'esecuzione. Cane la bocca? Infatti. Ah? Con la mela in bocca, il limone in bocca, che c'è? No, se raffinatezze, la porchetta da Riccian ce l'ha. Non so se a Todi, però insomma. Però vi metto la notizia così, ecco, nella chat della diretta. Potete vedere anche un filmatino se volete. Però subito la thumbnail vi fa vedere il suino immortalato. Rizzard ci scrive: aggiungerei anche la nazionale ha vinto nonostante la presenza allo stadio di quel menagramo di cui faccio il nome, Salvini merda. C'era lui allo stadio, non ci ho fatto neanche caso, figuratoci. Manco io. E tra l'altro, dopo un anno e mezzo, ma sarà perché esce, sarà per fare di Scooter, perché i suoi consensi, la sua notorietà, visibilità sta calando a picco. Ho fatto vedere oggi un filmatino che gira, che prende la FFP2 che ha, mamma mia, la toglie, si pulisce il muso come se avesse proprio appena finito di mangiare una pasta al sugo, e poi con l'anduia, perché mi sa che stava in Calabria, era un po' accaldato. Sì, in Calabria, ovviamente. Quindi ma ragazzi, purtroppo per lui, Giorgetta gli sta facendo le scarpe malgrado sì. abbiano, oh, scusate, ho intruppato il microfono, malgrado abbiano ingabbiato il suo mentore Bannon, Giorgetta zitta toma cacchia gli sta facendo le scarpette di cemento. Ma il problema è che tutto questo elettorato di destra zompa da una parte all'altra fino a che non si stufano, perché comunque magari quello che l'unica cosa che fino a che si stufano, fino a che ci stanno le elezioni, no, ragazzi, fermo là. In generale, secondo me la Meloni ha capito solo una cosa da Salvini, l'esperienza che ha fatto è che vive di sovraesposizione e egomaniacamente te lo fa piacere, però voglio dire, chiaramente politicamente è devastante. Ma perché, ragazzi, quello che secondo me ha capito bene la Meloni e che non ha capito Salvini è che la coerenza, una volta che ti vuoi inquadrare in una data posizione di sia politica vera e propria che poi di propaganda, la devi mantenere. Invece Salvini zompa di palo in frasca senza soluzione di continuità per cercare di raffazzonare, al punto tale da fare governo e opposizione nello stesso momento. Capisci che anche i più fedeli a un certo punto dicono: vabbè, questo è sciroccato, fa mandare dalla Meloni, che la pensa come lui allo stesso modo, però almeno è più quadrata. Ma Salvini sta facendo opposiverno. Opposiverno, esatto. È così, cioè quando sei al governo, però nello stesso tempo ti fai schifo da solo. No, lui da solo non si farà mai schifo, perché è troppo innamorato di se stesso. Poi ricordiamo sempre una cosa che non so se in queste onde mi piace sempre rinfrescare, che di partiti da Lega, come ci piace vedere Report, non esiste solo uno in attivo ma ben due. Uno è quello Salvini Premier che fa tutto, e l'altro è quello che sta con le donazioni del 2 per mille si sta pagando in comode rate i 49 milioni che ci hanno ciulato. Sono sempre soldi dal pubblico. Porca puttana. Sì. Tra l'altro, facendo anche vedere che c'è questo problema della doppia esposizione della Lega, no? Perché c'è la Lega quella originale, che praticamente sta lì semplicemente per pagare buffi. Pizzi, ma te sei impallato? Perché? L'ha detto adesso scusa. Francesco. No, stavo cercando una cosa perché c'è una dichiarazione di Salvini, giustamente, che volevo far sentire, sempre se chiaramente le notifiche di Android non si levano dal cazzo. Dai, io spero che ci si qualifichi ai mondiali. Detto questo, riprendo le parole dell'allenatore della Ternana: con un po' meno di stranieri in campo nelle giovanili e nei campionati di A, B e C, probabilmente ci sarebbe una nazionale più competitiva. Quindi io rimpiango l'epoca dei 3 stranieri in campo, perché mi sembra che sia un diritto far crescere i nostri ragazzi giocando con un pallone senza andare a recuperare campioni o mezze pippe dal resto del mondo. Quindi lei non farebbe giro. Ma la cosa bella di questo, cioè, Salvini c'ha veramente, secondo me, tutto quello che lui ha fatto fino adesso lo ha fatto per autogratificazione, perché si vede proprio dalla faccia che lui gode a esternare ste cazzate che fino a 15 anni fa neanche pensava, perché ricordatevi sempre che Salvini viene dall'estrema sinistra, quindi manca di che è uno che ci sei sonnato. Beh, ma è una banderuola, cresce, ragazzi, no? si evolve. Di quanto tempo fa era sta dichiarazione, visto che parlava di mondiale? Beh, penso di, aspetta che te lo dico, 3 anni fa. Beh, ragazzi, c'era il rilancio oggi sempre su Twitter di un suo tweet di 3-4 anni fa, in cui elogiava Theresa May, l'allora primo ministro britannico, perché voleva sostanzialmente raddoppiare le tasse a quegli imprenditori che assumevano stranieri. Al che già all'epoca qualcuno gli rispose: brutto deficiente, ma che cosa applaudi? Perché Salvini aveva detto che lo dovremmo fare anche noi in Italia. Uno gli ha risposto: a Salvini, ma che cazzo applaudi che ci sono 300.000 lavoratori italiani in Gran Bretagna, stiamo parlando di ben prima della Brexit, no? E questo, insomma, dall'idea del fatto di che quando lui spara certe frasi da un punto di vista proprio propagandistico, senza rendersi conto dell'applicabilità e del fatto che palesemente fanno danno, cioè fanno danno anche per quella parte di elettorato che la dovrebbe pensare come lui. Non... Vabbè, ma lui chi la pensa come lui non sta in Italia. Lui ha avuto un'accelerazione in questa fase di dichiarazione. C'è stato un momento in cui lui ha veramente ha saturato tutto. Che se da una parte secondo lui era una cosa positiva, dall'altra chiaramente ha smucinato il cazzo anche a quelli che dicevano bravo Salvini, che tu accendevi la radio e si sentiva Salvini, accendevi la televisione c'era Salvini, no, cioè, mettevi c'è ancora Netflix, Salvini, cioè... che dice sì, famiglia, però la gente si è rotta scuola, sì, lavoro, sì, sì, sempre sì, quelle sì. Quattro cose dice sempre puntuale, e le porti di bacia il rosario e bacia il salame e i fornitori. Tutti gli elenchi che fa, cioè, ci sono degli filmati, cioè dei video bellissimi, tutti gli elenchi che fa in ordine alfabetico, queste cose qua. Quindi aspetta, cucendo un pochino quello che hai detto tu Walter, quindi per questa dichiarazione che fece, più Theresa May meno Fiona May praticamente. Eh sì, tra l'altro sì, che poi vabbè Fiona May ha la nazionalità italiana perché poi si è sposata con un italiano e... non vuol dire niente, che vuol dire, che vuol dire, cioè, e anche lasciato un importante, beh ha lasciato italiano. Anche un'eredità sportiva non indifferente, perché Larissa Iapichino dopo tante merendine che ha mangiato la ragazzina sta diventando un'atleta olimpionica a livello della madre praticamente. Però non è abbastanza, a botta dei kinderini. Non è abbastanza bianca, cioè per andare bene, dai. Non è abbastanza tendente al come esatto, il codice dell'HTML è il bianco, per chi non l'avesse intuito. Vabbè, che brutto. Io spero che ci salviamo da questa deriva drammaticamente fascista. Proprio non ce la faccio a pensare di vivere. Purtroppo ciclicamente si ritorna. Facciamo una guerra prima, perlomeno. Ma perché questa è un'epoca in cui le guerre si fanno da nascosto, capito? Cioè la gente muore e poi le nascondono. Tu non sai niente perché sei dentro la Matrix. Ma tanto la verità la sa Enrico Montesano, ragazzi. Enrico Montesano, ragazzi. Che tra l'altro neanche 3-4 giorni fa mi sono rivisto Febbre da cavallo. Guarda, io più ci penso che per me quel film è un mito di infanzia. La febbre gli è rimasta, la febbre. Però ma pure il cavallo gli è rimasto. La pazzia da cavallo, esatto. No, diciamo che bisogna fare un distinguo, no, tra comunque il personaggio, l'attore storico, e poi chiaramente su quello che è adesso, perché dobbiamo sempre considerare stavamo parlando in vecchio. Però facciamo una parafrasi, me lo consenti? Pomada ha detto la più grande stronzata da quando l'uomo ha inventato il cavallo. Giusto. Bravo. Grazie. Cosa ha detto però Vestrigne? Strigni? Ha detto che praticamente secondo lui l'Avis ha dovuto distruggere enormi quantitativi di sangue donato, perché era sangue donato da persone che si sono vaccinate e si coagula spontaneamente, è tissotropia, sì. Praticamente a seconda di come lo agiti, no? E San Gennaro fa la stessa cosa tutti gli anni. Che San Gennaro era vaccinato. Quello che fa il sangue di solito, se non lo tratti come lo tratti quello dell'Avis, è un pochino come dire, ma vi rendete conto, tutti quelli che si sono vaccinati e si vaccineranno moriranno. Esatto, quindi che cazzo deve fare? Tra l'altro a proposito di questa cosa c'è quel ragazzino 17enne che ha denunciato i genitori Novax perché lui si vuole vaccinare. Sono ben due i ragazzi che in questi giorni hanno vaccinato, esatto. Hanno intentato causa contro i genitori con l'aiuto del personale delle scuole, con gli insegnanti. Insomma. Sì, diciamo che gli insegnanti, perlomeno questo caso che ho seguito io, hanno provato a convincere i genitori e non c'è stato verso. Allora lui si è rivolto a un avvocato facendo una denuncia, però comunque essendo lui minorenne, non può essere comunque scissa sta questione della patria potestà, insomma, dei genitori, se non andando praticamente al tribunale dei minori, dove ci deve essere un'apposita sentenza di un giudice. Peraltro che comunque... è un problema e non è facile, perché rispetto ad altri vaccini, quello per il Covid non è obbligatorio, quindi la coercizione dei genitori cosa comunque, comunque torniamo a quello che ci siamo detti l'altro giorno fra di noi, no? Il fatto che comunque una questione di un'emergenza sanitaria è stata demandata a un contesto e a una direzione strettamente politica, che ovviamente con tutti quelli che sono i difetti della cosa in sé, perché la politica alla fine ragiona sì su criteri tecnici suggeriti dagli esperti e via dicendo, ma fondamentalmente si basa sulle esigenze elettorali e deve quindi far contenti di tutti. Esatto, perché io continuo a dire che quando io ho fatto il vaiolo era obbligatorio, non era facoltativo. E la stessa cosa ci troviamo di fronte a questa stessa situazione. Ora io non voglio fare paragoni diretti perché non ho numeri, però è vero anche che determinati, la famosa trivalente, quindi poi i vaccini contro la poliomielite, contro il vaiolo eccetera, e probabilmente erano obbligatori perché nell'epoca di riferimento il tasso di mortalità era molto più alto di quello del Covid. La differenza è che il Covid ha un tasso di contagio sproporzionato, però il tasso di mortalità è tutto sommato molto contenuto. E invece io ricordo, sì, insomma, ma sta cosa della mortalità è comunque, e tutti quelli che vanno all'ospedale e tutti quelli che vanno in rianimazione, è un problema oggettivo. Io sono d'accordo con te, io l'avrei reso obbligatorio, no? Cioè, quindi è una stronzata, è l'ennesima stronzata di un'epoca in cui la politica non è in grado di prendersi le proprie responsabilità sul nome di questa paventata democrazia che oramai così in questo contesto non serve a un cazzo, perché cioè, voglio dire, oggettivamente se il problema, la democrazia è scegliere chi può determinare comunque determinate anzi scegli chi governerà il tuo paese o la tua regione o la tua città e via dicendo, ma non significa è democrazia allora non posso prendere decisioni nei confronti della popolazione, perché la popolazione deve essere libera. Quella non è democrazia, quella è stronzaggine, cioè è proprio la stronzaggine più totale. Anarchia. Sì, tra l'altro, ma non è anarchia, perché non è anarchia, però no, è tutto l'opposto. L'anarchia è proprio tutta un'altra cosa, è proprio comunque un'incapacità totale di prendere una decisione politica, che è quella di prendersi la responsabilità di definire che questa cosa, per ragioni economiche e sanitarie e di emergenza globale, deve essere un vaccino obbligatorio. Basta, cioè non ci sono tanti cristi. Vedi, mentre ho fatto questa ringa, si accendono le lampadine qui sul coso dell'Italia, capito? Quindi vuol dire che c'è il passaparola, sta dicendo delle cose bellissime. Oppure so bestemmie. Anche, oppure so quelli che ci vengono a cercare. Proprio è che lo Stato si è impegnato praticamente a collarsi tutti gli eventuali effetti collaterali a lungo termine che potessero... Mica tanto, considerando per esempio che parliamo del nostro caso specifico, che dovremo fare d'ufficio la vaccinazione eterologa perché hanno deciso che la seconda dose dopo la prima di AstraZeneca per noi dovrà essere d'elezione Pfizer. Sono stata volontaria però. No, di base tu vai lì e ricevi Pfizer. Se invece vuoi continuare a fare la seconda dose di AstraZeneca, ti viene data facoltà, ma devi firmare un consenso informato. Ma ti rendi conto che è una stronzata? Scarichi la responsabilità. Ma è sempre da comunque volontario. Che potessero andarci per niente. Ti rendi conto che un governo, e quindi sulla base comunque di un controllo scientifico, di una commissione che sta lì apposta, demanda al cittadino di fare una scelta su quale azione fare, su una scelta che precedentemente invece ha fatto il governo, senza contare perché che prima levano il vaccino questa competenza. Ah, no, comunque raga, stiamo veramente fuori di testa qua, cioè... sì vabbè, io continuo a dire che anzi scusa Walter, scusa, vai Scristone. Notte pio, porco pio. Secondo me, ragazzi, è tutto un discorso di lobbismo. E guarda caso, l'unico vaccino. Lobby frontali. Esatto, lobbismi frontali. L'unico vaccino che è stato messo sotto accusa è quello non americano. Guarda un po'. Ormai l'abbiamo comprati, mo li dobbiamo buttare e ricomprare quelli americani. Tra l'altro, al concerto di Bruce Springsteen si può entrare se si è vaccinati. Esatto, si può entrare se si è vaccinati, ma non si può entrare se si è vaccinati AstraZeneca. Beh, c'è un motivo tecnico. L'FDA americana non ha ancora approvato il vaccino, quindi è per la legge una decisione politica. Sì, però diciamo per la legge americana quel vaccino non è ancora valido. Perché è una decisione politica. Sì, nel senso è la decisione politica è stata anche quella di procrastinare. Se tu spieghi, se tu dai una spiegazione a sta cosa, la giustifichi, invece di la cosa come sta. È una decisione politica. Basta, è una decisione paracula, nemmeno politica. Politica. Nel senso che non mi piace dire una decisione politica perché potrebbe sottintendere che dietro ci fosse un ragionamento. Non c'è nessun ragionamento, c'è opportunismo. Motte pio, porco pio. Aspettate, I testimoni di Geova alla porta. Vaglia di male. Vaglia di male. Se Salvini farlo entrare, che lo corcamo. Se Salvini che ti dice che vendi erba, fallo entrare. Se viene, che ne vuoi un scusi, po'? Scusi, ma che lei spaccia? Che ne vuoi un po'? Vieni, entra. Per quello che dici, mi sa che un pochetto la vuoi, E me sa. Vabbè, Puccio. Puccio. Ci stai, Puccio? No, non ci sta. Puccione? Che ha avuto blackout, quindi... Oh, non l'ho letto. Ma l'ha scritto su Skype? Sì. Ah, è perché noi siamo da pizzi, quindi non abbiamo Skype aperto. Non abbiamo aperto. Skype. Qui c'è avuto blackout. Vabbè, allora Francesco. Francesco, fai le veci di Puccio. Secondo te? Parlaci di un bel libro, di un bel fumetto. Ma io vi vorrei parlare di... non so fare la sua imitazione, non ci riesco. Anche quella voce calda, sorridente, è bella, quasi quanto quella di Pizzi, però. Ma non so se per caso hai qualcosa da dirci sull'imperatore, non che fosse organizzato. No, non lo sto seguendo più, ma non per scelta, perché non c'ho cazzo, insomma, perché devo metterlo là, attento, a seguire, a prendere cose. Ho sentito dei brusii, non ho capito se fosse... Sì. È Puccio che prova a rientrare... Eccolo. Riprendere il microfono, sei duro. Eccolo, okay, eccolo. Okay. Se c'è l'imperatore, dimmelo. Che no, ti... non c'è, no, non c'è. Che no, ti lancio. Lo posso lanciare uguale? No, vabbè. C'è un solo imperatore di Adriano, ricordate. Esatto. Adriano ce l'ha in mano. C'era... Voleva parlare di quel podcast che ho ascoltato anche io. Diteci, diteci. Basta che poi gli altri lo vadano ad ascoltare quando non siamo in diretta, ecco, per deontologia lo dico. Per giustizia. No, quello è poco ma è sicuro, guarda. Anche perché ascoltarne due insieme diventa un problema. Dipende. Sentita che sto con l'auricolare del cellulare. Molto distorto, però non capiamo se perché sei lontano dall'auricolare, lontano dal cellulare, o se perché è degradata la connessione, non è chiaro. Non lo so, sto con 4G perché praticamente sono andato alla corrente a mezza putignano. Ah, sono soddisfazioni. Quello è perché l'estrazione, è cominciata l'estrazione di adenocromo. Esattamente, dubbi, guarda, avevo questa piosa sensazione anch'io. E niente, in pratica, qualche giorno fa, pagando su internet, faccio da interprete. Ok. Mi sono imbattuto una persona che tra l'altro anche in diretta con me, Simona, che si chiama Diego Caglielli, aveva lanciato un suo podcast per, diciamo, per raccontare una sua esperienza di intervista. Diego è ancora uno degli autori di fumetti più importanti che abbiamo attualmente. Per Bonelli ha lavorato su Diabolico. Sì, ti sentiamo una merda, però, diciamoci la verità. Ma essere sempre con il attrezzatore di emergenza, per cui padronire del mio microfono. Ah, ok. 2 minuti che mi riparte almeno il firewall, riesco a connettermi. Parla più lentamente, magari, così ti becchiamo meglio. Se no scatta come l'effetto, si chiama l'effetto Vargheon. Esatto. L'effetto Vargheon, infatti. Ah, ok. Aspettate che tra un secondo vi ho la connessione. Per lo mio, se riparte il firewall, vabbè, magari parliamo di un'altra cosa. L'importante poi... è che non parte il fireball. Che insomma, no. Palla di essere... fuoco. Okay. Un attimo, che sto tornando su Skype col microfono. Bene, ragazzi. Bene. Sempre bello. Comunque, ragazzi, non ci potete credere. Ho trovato la traduzione, cioè prima il testo in originale con i caratteri grechi. Poi la pronuncia e poi la traduzione in inglese del background di Cristo Natori. Ah, ah, dai, sì. Dai. No, ma ce l'ho vista anche io, sì. Vabbè. Però non possiamo dirla per non rovinare. Sì, è vero. Sarebbe, infatti la do solo ai patronisti, solo per... Rieccomi, ragazzi. Eccolo, oh, sì. Bravo. Stavamo dicendo di Caglielli. Vabbè, visto che arriva tu, ce ne andiamo noi. Infatti, allora. Sì, ciao. Diegone, esatto. Allora, in pratica, Diego, che è ancora uno degli autori più importanti tra quelli attualmente in attività sui fumetti italiani, qualche tempo fa è andato un po' fuori dai radar, nel senso che ha smesso di pubblicare. Chi lo conosceva, chi ce l'aveva come amico sui social, chi lo seguiva, ha capito che stava seguendo un'altra carriera, cioè stava cercando di lavorare per il cinema, per la televisione, come sceneggiatore, come autore teatrale. In tutto questo c'è stato il Covid. Diego ha avuto lo ammette candidamente, un mezzo tracollo e per, insomma, le conseguenze delle cose della vita, è finito a fare il rider durante la pandemia a Milano. Siccome non può impedire a un narratore di raccontare le storie, da questa esperienza prima ha tirato fuori una serie di post molto belli su Facebook, arricchiti da foto, Milano di notte vuota e simili, ha deciso di fare un podcast per raccontare questa esperienza. Per ora ne sono uscite solo 3 puntate, sono tutte e 3 molto belle, perché è riuscito a raccontare la sua esperienza personale senza diventare mai stucchevole, facendo ridere, perché Diego è un umorista prima di tutto, e soprattutto riuscendo a farti capire come quell'evento che lo ha portato da essere un autore che riceveva il Gran Guinigi a Lucca e che lavorava con Silver di Lupo Alberto a il tipo che consegna il vino la notte, e può capitare letteralmente a chiunque in qualsiasi momento. È un po' un flusso di coscienza, ma è molto divertente da seguire. Francesco, ne stavo parlando prima, lo ha ascoltato anche lui. Ogni episodio dura una ventina di minuti circa, sono fatti tecnicamente molto bene, se avete tempo, voglia. Ah, sì, poi lui è piacevole da ascoltare, sì, sì, ha una bella voce, anzi a suo tempo ci avevamo fatto quasi un pensierino, insomma. No, no, ma io direi che dovremmo farci. Io vivo nella speranza, mia moglie gli ho anche scritto che di quello che sta raccontando in quel podcast venga fuori una serie televisiva, perché è riuscito veramente a renderla piacevole e divertente da vivere. Bene, bene, quindi vabbè, quindi insomma facciamo intanto in bocca al lupo. È già di nuovo al lavoro, credo sia di nuovo per riprendere in mano Martin Mister, quindi ma che schifo, c'è della positività nell'aria. Bene, bene, anche se faceva schifo, quella di quella buona, però sì, sì, sì, assolutamente. Bene, beh, ragazzi, che dire, che fa caldo, sì, è un po' presto ancora, ma vabbè, allora non lo diciamo, ma lo pensiamo, cerchiamo almeno un altro quarto d'ora di andare avanti. Ma sì, che tanto, voglio dire, che cosa dice la chat? Non dice niente, vabbè, no, l'abbiamo proprio assopita. È triste perché almeno a un certo punto, fino a qualche tempo fa, c'era questa sana abitudine che i nostri chattaroli se ne andavano per cavolo loro e cominciavano a parlare tra di loro in chat. Ma qui mentre... è che se ne sono andati già per conto loro da un po' di tempo, ma mi sa che se ne sono usciti, andati già, ma succede, questo si chiama liberi tutti. Tana libera tutti. Tra l'altro, per esempio, Tana libera tutti pregiudica il futuro. C'è un Mauro Mangialorfo che fa ciao. E salutiamo ciao, l'ultimo arrivato. Ciao, così mi ricorda un'altra persona. Tutte sì, cose. Sì, ciao. Ciao. Attenzione, no, diciamo, salutiamo Mauro che è l'ultimo che si è palesato in chat questa sera. Non so se sta ascoltando la diretta, se non sta facendo male, veramente male. Come c'è anche Carlo, Carlo Sant'Agostino. Okay, non è vero, non no, secondo me lui dice io ci sono, ma va sulla fiducia, perché figura non sa neanche che c'ho GM. Infatti, perché si è collegato prima sperando di sentire Davide Gatti, ha sentito le nostre voci, ha detto ah, non va bene, e ha riagganciato. Infatti, ma io farei la stessa cosa, ma sì, ma chi ve lo fa fare? Ma infatti, chi può io vorrei interrogare. Non parliamo di calcio, ragazzi, perché non parliamo di calcio, però parliamo peccato di... perché ero preparatissimo, guarda, esatto. Tra l'altro facciamo la pubblicità che il nostro meraviglioso programma Eurocalcio 2021 sta veramente piacendo, ci fa veramente piacere, devo dire, insomma, che il lavoro questa volta che ci sta dietro è anche un po' più impegnativo rispetto a tantissimi altri programmi, non che tutti gli altri non ce l'abbiano, però c'è tutta una serie di assets preparati. Tutti quelli dove siamo noi normalmente non ce l'hanno, infatti. Grazie alle stupide creature, naturalmente, quindi insomma. Però ecco, volevo interrogarvi. Scusa, ma non è che una volta di queste stupide creature le invitiamo anche a OGM, così magari ci hanno qualche asset. Vabbè, se lo chiedi te lo fa, per questo che io non glielo chiedo, perché comunque veramente sono musicisti stra impegnati. Ed è, cioè, se tu glielo chiedi te lo fanno. No, mi sembra il caso. Ok, capito. Però io lo so che stai a levare risorse, insomma. Comunque, che cosa ne pensate del gesto di Ronaldo? Ma se quello della Coca-Cola? Quello della Coca-Cola. Secondo me era tutto organizzato. Pure secondo me, pure secondo me. Però cerchiamo di capire che significa tutto organizzato. Perché chiaramente se la Coca-Cola è sponsor a livello ufficiale della manifestazione e durante le conferenze stampa stanno queste bottigliette da Coca-Cola lì in bella mostra, chiaramente Cristiano Ronaldo facendo un gesto del tipo, insomma, crea un problema e secondo me può andare anche incontro a sanzioni, perché cioè, giustamente Ma poi la UEFA l'ha puntualizzato, ha detto: ragazzi, non spostate le bottigliette perché potreste essere sanzionati. Però in realtà, cioè, dopo, capito? Però figurate, no, se vanno a fare una sanzione a Cristiano Ronaldo, che poi pure si fanno una sanzione lui non se ne accorge neanche. Esatto. Ma a parte il fatto che, ripeto, secondo me si è parlato così tanto di Coca-Cola nei giorni successivi a questo evento, che ammesso che abbia perso in borsa fantastigliardi per questo gesto di Leonardo, li ha recuperati tutti in vendite, quindi lascia sta. Sì, sì, ma non è tanto quello. Il problema è Peppe Rizzard dice non si sente, però non so che significa non si sente. La Coca-Cola non si sente. Vabbè, okay. niente, tutto a posto. Ci sta Fabio ai colpi così. Scusa. Tutto a posto, Gino. Tutto a posto. Ma è stata una GG del piffero. Giornata del piffero. Vabbè, oggi è la giornata nazionale del piffero, ci sta dicendo. Non lo so. E ogni giorno è la giornata nazionale di qualcosa, quella degli abbracci, quella delle separazioni. Infatti, me lo dice Alexa tutte le mattine. Addirittura l'altro giorno era la giornata mondiale delle due o tre cose contemporaneamente. Mondiale del cazzo che te se frega. Ecco qua. Oggi è la giornata mondiale di due o tre cose insieme, Pizzi. Oggi è la giornata mondiale per festeggiare quello che vuoi. Certo che ci vuole coraggio a iniziare la giornata con Alexa che te cincischia nelle orecchie. No, ma non è che te cincischia. Tu quando stai a fare colazione dici: Alexa, inizia la giornata. E lei ti fa tutte le cose, le notizie, l'almanacco del giorno, te legge il giornale. Sai, è carino. Dai, al massimo durante la colazione potrei accettare Alexa che stonatori. Allora sì, diciamo che il mood sarebbe verosimile. Ma sinceramente... Che si te pio. Che poi si sembra, tutto sommato. Si te pio, porco zio. C'è pure Tonino, in certo senso. C'è Tonino. Zio Tonino, vabbè. Niente, questa è una cosa che volevo sapere da voi, insomma, su Cristiano Ronaldo. E poi c'è un'altra cosa che volevo sapere da parte vostra, ma... Mentre che... Scusa, Carlo ci fa notare che abbiamo fatto partire l'Alexa di tutti gli ascoltatori. Eh sì, è vero. Alexa, autodistruggiti. Aspetta, però scusate, per par condicio. Ok Google, ehi hey Siri. Giusto. Cortana? Niente, non ha fatto il cazzo. Penso che li abbiamo detti tutti. Zibubu. Belzebù. Zibubu. Esatto. Niente, volevo dire un'altra cosa che invece me l'ero segnata come notizia, ma siccome che adesso... Questa sedia è un dramma. Lo so. E adesso ho capito anche da dove venivano certi rumori molesti durante le dirette. Michela, che se poi io, oltre che la sedia è molesta, ti considera che pure Michela che c'è balla sopra praticamente, insomma. Quindi, che volevi dire? Non mi ricordo perché volevo chiudere anche con un'altra notizia che volevo sapere sempre la vostra opinione, ma oramai me la sono dimenticata e quindi... La topa Pizzi. No, aspetta, mi riprendo un attimo il telefono in mano, voi parlate. Va bene. Guardi, invece la tua opinione? Che secondo me ha fatto bene, perché tutte queste boccette che stavano là davanti, ma per uno che è compulsivo ossessivo, che c'è la boccetta là, guarda, è un dramma, cioè sta lì, guardi, continua a guardarla. Sì, confermo. Cioè, e poi c'erano due da una parte e una dall'altra. Guarda, e anche di diverso colore, ma tu sei matto. Cioè, ma io avevo un collega in ufficio tanti anni fa che era ossessivo, faceva queste cose. Una delle cose che faceva era, si comprava un sacco di pacchetti di Degan Protex, le gomme da masticare, quelle nella confezioncina pseudo pacchetto di sigarette, no? E se ne sfonnava a chili, e poi i pacchetti non li buttava. Praticamente costruiva il mega serpentone incastrandoli in una sull'altra, facendo delle S con le scatoline. E era arrivato a fare questo serpentone di scatoline di gomme da masticare lungo come tutta la scrivania, quindi sarà stato più di un metro e mezzo, saranno stati decine e decine di pacchetti di gomme. Un giorno la signora delle pulizie li ha buttati, ha fatto ha dato de matto. Non succede, cioè. Sì, ho capito, però sei anche al lavoro. Ecco che cosa, 15 tra poco, cagotto dall'oxilitolo, pochissimo, molto poco, scade il Prime Day. Che meno male, ragazzi. Che non è un Prime Day, è un Prime Today's. Guarda, quest'anno proprio non c'era trippa per gatti. Vabbè, quindi che te frega, meno male o non meno no, male. No, però te tassa, no, perché comunque poi ti tartassano inevitabilmente di pubblicità ovunque. Beh, più se c'hai i gruppi Telegram. Esatto, io sono iscritto effettivamente, ma sono tutti silenziati, quindi di offerte, però diciamo questi due giorni scaricano il cellulare. Esatto, sì, questo lo devi mettere in conto, insomma, che ci sia questa cosa qua. A me interessava solo una cosa, E chiaramente l'algoritmo lo sa. Tu ci scherzi? No, non ci scherzo. Cioè, lo penso, chiaramente è l'unico. Se vado sul computer De Marco, secondo me lo trovo in offerta. Ma infatti dovevi fare così. La GoPro a 65 euro. In effetti, non la so GoPro 9 Max Antani a 2005. No, la 9 Black, no. Ma la 8 mi sa che era in super sconto. Però, cioè, vedi. Tu vuoi la 9? Esatto, cazzo, no. Cazzo. Allora, va bene. Boh, che te dirò, tutta sta moda delle GoPro, che è vero che si sono molto evolute tecnologicamente, però con la focale fissa che ce fai? Vabbè, ma quelle hanno delle funzioni di rapidità, per esempio. Io ho comprato una Xiaomi pagata 100 euro, 4K. Una Xiaomi, non è che fa le cose pirotecniche, però per 100 euro ci sta anche. Però per due giorni era euro, disponibile, sì, lo so. Per due giorni era disponibile la PlayStation 5. Ha ha ha. E tu ci credi? Puccio, l'hai comprata? Ma assolutamente no. Tu hai comprato qualcosa in questo Prime Days? La scheda grafica? No. No. Francesco, tu hai comprato qualcosa? No, ragazzi, poco da ridere la scheda grafica. Stanno rispuntando. Si dice che anche perché praticamente la Cina ha deciso di spegnere il 90% delle stazioni di sminamento di Bitcoin, Ethereum, eccetera. Quindi così. Come mai? Perché la Cina ha dichiarato guerra alle monete e alle criptovalute. Vanno direttamente di fusione nucleare? No, perché sai che la Cina ha capito che basta queste stronzate. La Cina è vaccina. Esatto. Tra l'altro la Cina che si sta preparando a conquistare Marte, ragazzi. Tra le altre cose. È notizia di oggi che Marte dopo... è rossa. Esatto, bravo. Dopo la notizia, insomma, dopo il rover che, insomma, sta lì, sta mandando anche le sue prime immagini che addirittura le condividono con l'Occidente. Pensate, è una cosa incredibile. Ha ufficializzato la preparazione della sua prima missione umana su Marte, quindi... Secondo me arriveranno prima degli americani, che anche in questo si faranno superata da un altro governo comunista. Chiaramente, anche se... Vabbè, insomma... E niente, questo, insomma, so tu cose... pensa che la Cina sta meditando di rapire Andrea Purgatori in maniera tale da poter mandare Fecchia su Marte. Poverino. Sì. Bene, io direi che possiamo andare verso la conclusione, ricordando che Runtime Radio è la vostra news Westlands Radio Geek in modulazione di frequenza, e che abbiamo provato a vedere quanto costa una frequenza DAB, ma non siamo riusciti a vincerlo. Ragazzi, se qualcuno di voi lo sa, ce lo dicaci. Quanto abbiamo costa soltanto uno slot su Mux DAB Plus? Abbiamo solo capito che costa 0,00004 euro al minuto. Giusto, questo abbiamo capito. Per chi chiama da fuori Roma. Poi in proporzione a cosa non si sa. Cioè, però, insomma, questa è una cosa importante. Però, dicevo, Runtime Radio, la vostra Radio Geek, è sempre qui a disposizione. Facciamo tante live, facciamo tanti podcast. Sono usciti anche podcast nuovi e altri podcast nuovi usciranno nel prossimo futuro. Quindi continuiamo addirittura, insomma, a arricchire la proposta. Ma soprattutto, una cosa importante, abbiamo fatto l'upgrade del nostro piano publishing in Spreaker. Quindi se ci date una mano dal punto di vista economico, siamo sempre ben contenti, andando su runtime.it e cliccando su runtimeradio.it. Hai ragione. Quindi runtimeradio.it. Sai che c'è, donano un sacco di persone, ma non a noi, perché se sbagliano. Se sbagliano vanno da un'altra parte. Comunque runtimeradio.it/anch'io, ma se andate su runtimeradio.it, chiaramente c'è il pulsante sopra anche io, così almeno non vi sbagliate, potete aderire alla nostra campagna Patreon oppure fare una donazione una tantum su PayPal. E questo, noi di questo ovviamente vi ringraziamo. E poi ci sono i gadget, però purtroppo è in lavorazione. Carlo Sant'Agostino, senti con ste orecchie? È in lavorazione la pagina dello shop, dove potrete trovare un sacco di materiale. E anzi, ringrazio tutti quelli che hanno fatto acquisti che soltanto in un mese ci hanno permesso, però... insomma, di fare un bel passo in avanti, perché devo dire che questo nuovo sistema, insomma, è abbastanza utile da questo punto di vista. E quindi metteremo questo shop dove ci sono magliette, cappellini, tappe di mouse, c'è un po' di tutto, e usciranno anche delle magliette specifiche Runtime Rovers che faranno riferimento a molte delle cose che conoscete se avete seguito Runtime, insomma, negli anni. Quindi collezionatele tutte, frasi, cose, insomma, che sicuramente a molti faranno piacere, questo è abbastanza certo. E Siamo arrivati, siamo entrati nell'orizzonte degli eventi del milione di download, che è una cosa che a noi fa veramente molto piacere, perché è comunque una sorta di traguardo morale, perché non è che ci cambia poi traguardo niente, traguardo umorale, arbitrario. Esatto, anche arbitrario, diciamo così, perché questa cosa insomma si aggiunge al milione di download che già raggiungiamo con IPN, Italian Podcast Network. Scusa Simone, perché Peppe Rizzard ci chiede: Simone, posso comprare la tazza autografata da ognuno di voi? C'è il boccale da birra di OGM, che se lo compri, esatto, poi te lo veniamo a firmare fino a casa. Anzi, se, mentre che Sbano comincia a fare un attimo i saluti, provo ad andare a vedere se esiste, se riesco a linkarvelo, così intanto ve lo metto. Va bene, ragazzi, allora io approfitto per salutare tutti quelli che questa sera ci hanno fatto compagnia in chat. Allunga un po', allora saluto Antonio, Alberto, Abe Antonio, Abatecola Francesco, Abatecola Laura, Abatangelo Pino, che stronzio, e così via. Salutiamo tutti quelli e tutte quelle, oggi le quote rosa le abbiamo rispettate, che ci hanno fatto compagnia in chat, perché a inizio puntata perlomeno c'erano Melanie e Girasole, poi se ne sono andate, ci hanno anche ragione, troppo rispetto, se ne sono andate. Poi ci hanno raggiunto Arturino Mazzei, che però non ci stava ascoltando. Ci ha raggiunto Peppe Rizzard, che ci stava guardando, non sentiva. Ci ha raggiunto Carlo Sant'Agostino, ci ha raggiunto Mauro Mongerolfo, ci hanno raggiunto veramente in tanti. Alla fine, insomma, per come eravamo partiti, gran bella serata. E salutiamo i sodali dell'avventura odierna. In particolare, se Francesco vuole, prima di salutarci, ci vuole ricordare il suo nuovo podcast, ci fa piacere ricordarlo. Va bene. Praticamente io e una mia collega abbiamo detto: come possiamo, ma secondo te, se facciamo parlare gente giovine, diciamo cosiddetta giovine, quindi under 30, e gente over 60, seminano le madonne? Io dicevo sì, lei diceva no, e ne è uscito fuori sto podcast, finanziato tra l'altro dal comune di Reggio Emilia, che si chiama Generazioni, e semplicemente Generazioni. Inizialmente doveva chiamarsi Vecchi e Giovani Cast, però abbiamo detto no, forse no, non ce lo finanziano così. Ed è un podcast in 7 puntate più una bonus, in cui praticamente noi in puntata abbiamo invitato un under 30, un over 60, e l'abbiamo fatto discutere tematicamente di ogni puntata. La prima, per esempio, è sul cibo e le tradizioni, dire ma è tanto importante, tanto vero che i giovani imparino le vecchie tradizioni, oppure anche sti cazzi. La seconda puntata, che è uscita proprio oggi, è uscita sulla musica. Abbiamo intervistato due musicisti, e uno si è fatta una scuola diversa, perché diciamo all'epoca sua era un po' diversa, e l'altro tipo di scuola. Comunque ci siamo divertiti, è molto meno palloso di quanto possa sembrare, perché poi ci sto pure io ogni tanto, dico due stronzate. Quella degli sprazzi di sangue ha fatto ridere molto a Simone. Sì, devo dire sì. Sì, sì. E ha inquietato Girasole, tra l'altro. Cosa? È inquietato Girasole. A me ha fatto ridere, Girasole si è un po' inquietato. E la trovate ovviamente su Spreaker, basta che cercate Generazioni, il nome completo, che era dato il signor Pizzi in questione, perché andai disperato, come la chiamiamo, l'alternativa è Generazioni Cassa, lui se ne venne fuori con Generazioni, opinione al confronto sparse nel tempo, ancora devo capire cosa voglia dire, però sembrava bello, altisonante. Ma pure io lo devo capire, però io tu mi hai chiesto un titolo, ho dato un titolo, è piaciuto. No, ma l'importante è non finire nel Nexus. A noi piace come suona, non era una critica, quindi non Davide subito. E stavo dicendo, le trovate su Spreaker, su Spotify, stiamo addestrando chi ce lo pubblica, perché non lo pubblichiamo direttamente noi, ma una delle cooperative, diciamo, che ci ha aiutato a finanziarlo, che lo produce, che deve addestrare chi le fa a mettere i click sulle spunte e distribuisce anche su altre cose, ci arriveranno, però hanno fatto già tanti progressi. E niente, l'ho trovato qui su Spreaker, Spotify, basta che cercate Generazioni, anzi ve lo metto in chat, vaffanculo, così andate ad ascoltare. Ve lo dico, sono interviste di 40-50 minuti, voi ve le ascoltate a 2x, quindi sì, no, ma perché sta stronzata del 2x, allora sta stronzata del 2x la fa Raccuglia, perché vabbè, ma il 2x ha senso per i messaggi in chat, mica per il contenuto. E la fai te perché sei amico di Raccuglia. Se no non lo fa nessuno, sta cosa del 2x. Francesca, amico di Raccuglia. tipo amico delle guardie. Esatto, lo sto per dire, suonava tanto come amico delle guardie che non, insomma, non è qualificante. E vabbè. Va bene ragazzi, allora continuo con i saluti. Ecco, intanto per chi fosse interessato, Francesco sulla chat della diretta, diretta Ramten Radio su Telegram, ha messo il link. Fatemi a questo punto salutare anche gli altri sodali della puntata di oggi, a cominciare dal febbricitante, ma non per sua volontà, Puccio Console dalla Puglia. Ciao ragazzi, la prossima volta spero di chiamarvi dalla Svezia. Magari.